9 in punto. Buongiorno gentili ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Venerdì scorso ci avete detto: togliete il gatto, che il gatto è di Oscar Giannino. Beh, insomma, avete ragione, siamo stati molto indecisi su quale animale scegliere per sostituire il gatto con un altro animale. Alla fine abbiamo scelto questo lupo, in realtà un cane lupo che ulula nella notte. Beh, insomma, diciamo che fondamentalmente ci divertiva. Poi leggetelo come volete, leggetelo come un abbaiare alla luna, se credete naturalmente, leggetelo come un cane da guardia e che fa bene la guardia, però insomma non ci vorremmo dare troppe arie naturalmente. Parliamo di calcio e razzismo stamattina, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. 9 in punto è l'hashtag su Twitter, con il 9 scritto a lettere. Se volete anche gli sms 349-238-6666, già qualcuno ci scrive concordando con Zeman, che come al solito provocatorio ha detto insomma succede tra tutti, succede anche tra bianchi, ma si continua. Ne parliamo naturalmente dopo l'episodio che ormai conoscete tutti, quello avvenuto durante la partita amichevole tra Pro Patria e Milan. Boateng, offeso, ha deciso di lasciare il campo dopo i bu razzisti al suo indirizzo. Così ha fatto il resto della squadra. Da vedere se un comportamento di questo genere verrebbe replicato naturalmente in una partita ufficiale, in una partita di campionato, chissà, magari in una partita con il Barcellona, ammesso che i tifosi del Barcellona facciano cose di questo genere, perché su questo naturalmente c'è tutto da discutere. E dopo un altro episodio sabato all'indirizzo di Victor Ibarbo, giocatore di colore del Cagliari, questa volta gli autori erano tifosi della Lazio, fortunatamente zittiti nella sostanza dal resto dello stadio. Mi accompagnerà in quest'ora il collega di Radio 24, Dario Ricci. Buongiorno Dario. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. È un collega che conoscete come voce, perché lo sentite spesso negli aggiornamenti sportivi. Non è solamente un cronista sportivo, ma un collega abituato a guardare lo sport un po' a tutto tondo. C'è la sua trasmissione, che vi ricordo, A Bordo Campo, tutti i sabati mattina alle 6:30 e la domenica alle 14:30. Saluto innanzitutto con lei, faremo questa apertura di trasmissione, il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri. Buongiorno ministro. Buongiorno. Inizierei, ministro, a chiederle molto semplicemente e molto banalmente un commento su questo episodio, sull'episodio di Pro Patria Milan. Ma guardi, sicuramente sono episodi esecrabili e occorre contro essi reagire nella maniera più ferma e più decisa. È un episodio che è servito, secondo me, molto a richiamare l'attenzione su un fenomeno che purtroppo è diffuso, ma come tale va considerato, e su questo occorre fare delle riflessioni per essere più incisivi e più capaci in momenti successivi di porre dei rimedi. Prego, prego. Sì, ministro, vorrei capire se secondo lei c'è qualcosa di più che i gestori dell'ordine pubblico negli stadi possono fare. Intendo avere più potere, essere più incisivi, se vogliamo, se si può ipotizzare qualche direttiva in questa direzione. Ma la direttiva, e so che ci sarà un incontro nei prossimi giorni tra la Lega Calcio e il capo della polizia, è quella di essere molto duri, e occorre però intanto una presa ferma di posizione da parte dell'arbitro, che deve individuare nel momento il tipo di manifestazione che accade, perché vede, se fossero un numero limitato di persone occorre agire su quelle persone, ma non arrivare a sospendere la partita, perché può creare dei problemi di ordine pubblico molto seri. La sospensione della partita deve essere uno strumento usato con molta fermezza, con molto rigore, là dove ci sono le condizioni, anche per evitare che venga utilizzato questo strumento magari per vincere il tavolino. Non so se mi sono spiegato, cioè occorre proprio colpire, individuare chi fa questi cose razzisti, allontanarli, dargli d'arti, essere molto duri nei provvedimenti disciplinari nei loro confronti. È chiaro che se poi c'è invece una reazione razzista da parte da una parte importante della tifoseria la partita va sospesa, ma quello dovrà farlo comunque chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico, perché ci sono poi dei problemi legati al deflusso che vanno gestiti da persone che affrontano il problema con la professionalità dovuta. Il gesto iniziale, quindi il segnale iniziale, lei dice, Ministro, deve arrivare dall'arbitro necessariamente, anche in partite ufficiali, in partite, soprattutto in partite più importanti come quelle per esempio di campionato, magari di coppa. Deve indicare che qualora non cessassero queste manifestazioni, la partita viene sospesa. Ci deve essere un segnale da chi è sul territorio e naturalmente poi con un controllo degli spalti dagli uomini che sono addetti a questo. Interromperla così è una cosa, secondo me è stato un bel gesto, un gesto assolutamente pulito, importante, un gesto che ha richiamato l'attenzione su un fenomeno grave e quindi tutto l'apprezzamento, diciamo. Però poi deve rimanere un gesto isolato, ma su questo occorre mettere in piedi una strategia molto, molto seria, molto complessa, perché non possiamo affidare gli andamenti della partita magari a 4 o 5 persone che magari lo fanno apposta. Cioè dobbiamo evitare ogni forma di strumentalizzazione di fenomeni che invece vanno colpiti, e poi chi si rende responsabile di questa attività va allontanato esattamente come i violenti, con la stessa durezza che abbiamo nei confronti dei violenti, quindi con i DASPO e con tutti i provvedimenti inibitori per assistere alle partite. Mi sembra auspicare quindi, Ministro, una maggiore durezza da questo lato, che finora forse evidentemente non c'è stata. Forse il fenomeno era meno, diciamo che va crescendo, e occorre poi naturalmente tutto un insieme di fattori, perché poi non dimentichiamo anche un comportamento da parte dei giocatori che sia un comportamento educativo verso il pubblico e non un comportamento disucativo. Non mi riferisco al caso dell'altro giorno, che comprendo perfettamente lo stato d'animo del giocatore, ma in genere occorre proprio che tutti quanti abbiano a che fare con il calcio lo facciano tenendo conto che si tratta di uno sport e non di un luogo di rissa. È complesso, perché purtroppo negli spettatori c'è di tutto, e qui siamo a dei livelli di subcultura di una minoranza piccola che però viene a toccare tutto il complesso degli spettatori. Ecco, Ministro, abbiamo visto poco fa, vi abbiamo raccontato di un ascoltatore che via SMS ci ricordava le parole di Zeman, ma Zeman ha detto anche un'altra cosa che mi sembra interessante. Dice: il problema non è solo il razzismo, negli stadi si fanno cose che fuori dallo stadio non succedono, cioè come se ci fosse una sorta di sospensione di quello che normalmente civilmente viene tollerato. Ministro, ha questa sensazione anche lei? Sì, guardi, anch'io ho letto le dichiarazioni di Zeman e devo dire che le trovo molto molto efficaci. In realtà è il luogo dove si manifestano a volte negli stadi gli istinti peggiori, cioè come se all'improvviso ci si volesse liberare degli istinti di violenza. E là dove una volta queste cose si sfociavano nelle guerre, eccetera, adesso avvengono negli stadi. Ci sono delle persone che nella partita fanno proprio, esprimono la loro violenza, la loro insoddisfazione, quindi è proprio un fenomeno culturale che va combattuto, che è un fenomeno dei nostri tempi, ma va combattuto a 360 gradi, non soltanto per quanto riguarda il razzismo. C'è il nostro Dario Ricci che voleva farle una domanda. Ministro, dagli steward al prefetto, sono tanti i soggetti deputati con diversi ruoli alla sicurezza nei nostri stadi. Ecco, talmente tanti forse che ognuno poi vede diminuita la propria responsabilità individuale. Facciamo l'esempio degli steward che si godono la partita, mentre in Inghilterra fissano per 90 minuti più recupero gli spettatori, perché quello è il loro compito. Ecco, da questo punto di vista è proprio la catena di comando che va rivista, che va rioleata, che vanno ricostruiti questi questi ingranaggi per rimettere a punto questo meccanismo. Guardi, ci sono fatti già passi da gigante rispetto a quello che era una volta. Poi potrebbe aprire un dibattito sulla qualità dei nostri stadi, sulla loro dislocazione, su altri aspetti che però qui non tocchiamo. Sicuramente la catena di comando deve essere ogni tanto oleata e riavviata, diciamo, e gli steward devono fare gli steward, non devono guardare la partita, devono guardare gli spettatori. Il loro compito è quello, e come d'altra parte si è sempre fatto, nel senso spalle alla partita e occhio a chi sta sugli spalti, perché a quel punto se prendi il coro razzista lo individui subito e subito lo allontani. Cioè ci vuole un impegno forte, ma con questo credo che occorra proprio ogni tanto, come tutte le cose del mondo, ogni tanto la riavviata. Quindi macchina che in qualche misura va riavviata. Noi la ringraziamo, ringraziamo il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri per essere stata con noi, che tra l'altro adesso deve scappare. Cosa c'è? La festa tricolore oggi? La festa del tricolore, oggi è la nascita del tricolore. Che è nato a Reggio Emilia appunto il 7 di gennaio. Un'ultima battuta, visto che ce l'abbiamo in onda, ministro, insomma, legislatura alla fine, ci dà una rapida valutazione della sua esperienza come ministro dell'Interno? Per quanto mi riguarda è stata un'esperienza entusiasmante, molto molto impegnativa, ma molto molto viva, perché a 360 gradi sui problemi di un paese che ha qualche difficoltà, ma che ha tantissime potenzialità. Uno straordinario paese che sa rispondere bene anche nei momenti più difficili, quindi è stata un'esperienza molto bella. Grazie, grazie al ministro Cancellieri per essere stata con noi e buona giornata e buona festa del tricolore naturalmente. Grazie, grazie tanto, arrivederla, buongiorno. E dunque, riprendiamo da quelli che sono i temi che anche lo stesso ministro Cancellieri ha rilanciato. Salutiamo innanzitutto Damiano Tommasi, presidente dell'Asso Calciatori, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Tommasi, buongiorno. La prima domanda, se vogliamo, è la più semplice, la più banale. C'è chi dice, come ha fatto Joseph Blatter, insomma, che quel gesto, l'uscita dal campo, tanto di Boateng quanto del Milan, è stato un gesto sbagliato. Diciamo che Blatter non è mai prodigo di complimenti nei confronti dell'Italia e delle squadre italiane, insomma, per dirla gentilmente. Detto ciò, insomma, forse è anche un modo di dire che non può essere deputato ai giocatori, non può essere deputato alle squadre una scelta di questo genere, no? No, beh, ho detto prima anche il ministro, insomma c'è un problema di ordine pubblico e il responsabile dell'ordine pubblico non è certo i giocatori, e quindi non sono loro anche a rilevare i problemi che ci possono essere nell'eventuale sospensione della partita. Credo che il gesto del Milan sia innanzitutto legato alla partita, al tipo di partita che era, insomma, pensare che ci fossero tifosi in un amichevole tra una squadra di Gaprona, una grande squadra, quindi una festa per le famiglie in un periodo tra l'altro in cui tanti ragazzi sono in vacanza, pensare che ci fossero dei gruppo di ragazzi, insomma, pochi o tanti, già uno è troppo, che hanno approfittato della partita e della visibilità per fare quello che hanno fatto, probabilmente ha anche fatto scattare la reazione forte della squadra, di Boateng prima, poi della squadra che si è sentita solidale col giocatore, e hanno deciso di sospendere una partita, tra l'altro mi sembra di capire anche rinviandola quasi, nel senso di promettere che alla gran parte dei tifosi che erano lì, che si godevano la festa, di tornare e rigiocare la partita. Poi mi risulta anche che ci sia stato un applauso da parte del pubblico al gesto e al fatto di non voler continuare in quel clima. Di sicuro le normative non prevedono questo, non prevedono che un giocatore tiri una pallonata nei confronti dei tifosi. La normativa è una cosa che anche a livello istituzionale ovviamente va difesa, eventualmente va studiata per eventuali modifiche, però esiste e va rispettata, quindi forse in quel senso si riferiva anche Blatter, che il fatto di sospendere la partita da parte di una squadra e non da parte di chi è deputato a farlo è una scelta non corretta. Di sicuro è stata condivisa da molti e apprezzata anche da molti. Non preoccupa un po' l'estensione del fenomeno? Cioè, se scene di questo genere che vediamo costantemente, l'osservatorio sul razzismo nel mondo del calcio ha censito 24 episodi all'inizio dell'anno, se si esclude appunto la questione dell'amichevole contro tra il Milan e il Pro Patria o la Pro Patria, Non preoccupa un po' l'estensione del fenomeno se, come diceva lei, arriviamo al punto che in un amichevole, una situazione nella quale dovrebbe esserci una festa appunto da famiglia, la soddisfazione magari dei tifosi della Pro Patria di veder giocare una squadra al livello del Milan su quel campo, insomma, è insomma un campanello d'allarme non bello, direi. Siamo in costante allerta non solo per questi episodi, anche per altri che sono anche più tardi. Purtroppo, si è detto anche prima, anche il ministro, allo stadio ci si permettono cose che al di fuori dello stadio non ci si permettono. Attraverso il calcio, con la scusa del calcio, perché secondo me poi basta mettersi una sciarpa e subito è legato al calcio un episodio di inciviltà o di poca cultura o di voglia di protagonismo. Di violenza anche fisica nei confronti di calciatori, nei confronti di squadre, minacce, contestazioni violente legate ai risultati di una squadra di calcio, purtroppo sono episodi che si verificano a livello settimanale, quest'anno addirittura una squadra di Serie A, purtroppo sono campanelli d'allarme che denotano come calcio, comunque l'aggregazione attorno al calcio con la scusa del calcio riunisce anche una sorta di impunità anonima o comunque di fenomeno che purtroppo ci siamo quasi abituati a considerarlo un effetto collaterale del calcio e bisogna iniziare, e questo credo che bisogna dare atto anche al gesto del Milan, a rialzare l'attenzione nei confronti di questi episodi, perché poi credo che il passo successivo sia la degenerazione ulteriore e magari permettersi allo stadio quello che è successo soprattutto alla fine degli anni Ottanta e ha creato parecchi disagi non solo in Inghilterra. Abbiamo due telefonate, Giuseppe che ci chiama da Pisa, almeno le prime due, Rinaldo che ci chiama da Como, iniziamo da Giuseppe, buongiorno Giuseppe. Buongiorno a tutti, complimenti per la sobrietà della conduzione. Diciamo che il mio intervento in parte è stato bruciato, io ho esordito con la collaboratrice dicendo che per sapere come fare basta guardare l'Inghilterra, dove è un piacere veramente vedere i tifosi che vuoi perché costretti, vuoi perché hanno capito che aria tira, stanno lì belli tranquilli a guardare la partita senza reclamare più di tanto, insomma. Da noi invece è una sorta di impunità assoluta allo stadio, ma non solo allo stadio, anche fuori dallo stadio succedono cose che in una normale nazione non succedono e non dovrebbero succedere. E purtroppo è stato permesso questo dai politici. I politici, non so, o per ingraziarsi, diciamo, un certo tipo di elettori o per chissà quali secondi motivi, o perché purtroppo forse i politici non riescono a svolgere il loro compito con serenità, hanno consentito e consentono tuttora questa impunità. Basterebbe fare delle leggi, andare in Inghilterra e dire: signori, che avete fatto voi? Diteci che cosa avete fatto, che lo scriviamo subito sulle nostre norme e puniamo chi... Purtroppo se non si prendono questi provvedimenti non arriveremo mai a niente, ma non solo nel campo dello sport, in tutti gli altri campi. La colpa non è di chi va a vedere la partita o del presidente che magari o dei giocatori che hanno degli atteggiamenti a volte eccessivi. La colpa è di chi fa le leggi, deve farle. Lei dice Giuseppe, quindi nuove leggi. C'è chi obietta, lo sentiremo più avanti. In realtà le leggi ci sono già, il problema è che vengano applicate oppure no. Rinaldo ci chiama da Como, buongiorno. Sì, buongiorno, buon anno. Ma a prescindere, mi perdoni la battuta, ma i politici hanno sempre la responsabilità di tutto. Forse sarebbe meglio cominciassimo a fare un po' di autocritica come popolo italiano, per cui non sono assolutamente d'accordo con quello che diceva l'ascoltatore precedente. Ciò premesso, vorrei dire due cose fondamentali. Prima cosa, secondo me il Milan ha abbandonato il campo semplicemente perché era una partita amichevole. Io vorrei vedere una grande squadra che abbandona il campo in una partita di campionato, di Champions League o di Europa League. Anche questo, ciò premesso, secondo me cerchiamo sempre di, io sono in controtendenza, ampliare i problemi è diventata la legge quotidiana. Negli stadi da cent'anni si dice di tutto e di più. Arbitro cornuto, figlio di puttana, tua moglie una troia, noi siamo assolutamente abituati ormai a questo linguaggio che è osceno, ma è entrato nella normalità. Chissà come mai quando di una persona di colore si grida sporco negro oppure di un gay si dice culatone, si diventa automaticamente degli omofobi. Io vorrei capire di quei quattro imbecilli che gridavano quanti veramente lo sono e quanti invece si divertono a creare queste trasmissioni che parlano sempre solo di un problema che secondo me è talmente piccolo e talmente risicato che non andrebbe neanche affrontato, perché gli si fa il piacere di affrontarlo facendo queste trasmissioni, mi perdoni, sa. Capisco benissimo. Rinaldo, il suo discorso è chiarissimo. Mi corre l'obbligo di ricordare a tutti gli ascoltatori che siamo comunque in fascia protetta. Una pausa, ci risentiamo tra poco. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Come avete sentito, accogliamo anche le critiche, come quella di Rinaldo, che ci ha chiamato da Como poco fa e ci ha detto: ragazzi, questa è una minoranza di imbecilli della quale non dobbiamo preoccuparci. La realtà è che insomma, se si lasciano passare questi segnali, poi francamente, almeno per come la vedo io, naturalmente è assolutamente opinabile, chissà poi dove si arriva. Saluto Giancarlo Abete, presidente della FIGC, buongiorno. Buongiorno. Ha sentito poco fa il ministro Cancellieri auspicare una maggiore durezza. So che insomma andrete ad un incontro, se non sbaglio, almeno lo avete richiesto con Manganelli, con il capo della polizia. Che cosa state immaginando? Che cosa state pensando? Abbiamo un incontro programmato per domani pomeriggio con il prefetto Manganelli, anche alla luce di quello che è avvenuto venerdì, per fare ulteriori considerazioni e rafforzare il coordinamento relativamente alla normativa attualmente esistente, con l'obiettivo naturale di far sì che ogni fenomeno di discriminazione razziale non trovi nessun tipo di presenza all'interno degli stadi. Oggi, come ricordava anche correttamente il Ministro, c'è una circolare ministeriale, quindi una disposizione statuale che prevede una titolarità in capo al responsabile dell'ordine pubblico a ordinare all'arbitro l'eventuale non inizio o la sospensione o l'interruzione della partita, e quindi l'arbitro, fermo restando ogni tipo di attività che può svolgere, deve in qualche modo essere in linea con quelle che sono le indicazioni che provengono dal responsabile dell'ordine pubblico. Occorre naturalmente rafforzare questo tipo di rapporto in modo tale che si raggiunga l'obiettivo. Questo è quello che noi ci proponiamo dell'incontro con il prefetto Manganelli. Quindi non chiedete un rafforzamento dei poteri di chi gestisce l'ordine pubblico in caso di situazioni di questo genere, cioè semplicemente è una riunione per fare il punto e cercare di coordinare le cose, in sostanza. Ma il rafforzamento dei poteri non c'è necessità di chiederlo, perché è già nella autonoma determinazione del responsabile dell'ordine pubblico. Il responsabile dell'ordine pubblico in qualsiasi momento, in relazione a queste fattispecie, in questo caso parliamo di cori o striscioni a contenuto razzista, ha la titolarità a non iniziare la partita, ordinando all'arbitro di comportarsi di conseguenza, di sospenderla o di interromperla definitivamente. Quindi il problema non è collegato al rafforzamento delle funzioni, è collegato al limite alla valutazione sempre più rigorosa che deve fare o dovrà fare il responsabile dell'ordine pubblico nel valutare queste fattispecie. Poi, come ricordava il Ministro, diversa è la situazione di uno stadio che in qualche modo dà luogo a cori razzisti, diverso è il fatto di 5 a 10 o 15 persone, non perché quelle 15 persone non debbano essere emarginate, allontanate e sanzionate, ma perché naturalmente il responsabile dell'ordine pubblico valuta il contesto generale nel quale interviene quell'evento. Quindi una cosa è un evento in qualche modo maggioritario, un'altra cosa è una situazione che riguarda un numero limitato di persone zittito, come è avvenuto in occasione della partita Lazio-Cagliari da altri tifosi della... Non crede che ci sia un po' troppa tolleranza rispetto a questi episodi, Abete? Ma in genere, insomma... diciamo che c'è probabilmente più la difficoltà di individuare soluzioni esaustive che non tolleranza. Tolleranza non penso che ci sia, perché tutti quanti noi, penso la gran parte di noi, abbiamo lo stesso sentimento e lo stesso tipo di ripugnanza nei confronti di questi comportamenti, e tutti vogliamo raggiungere lo stesso obiettivo. Poi c'è la necessità di individuare le modalità con cui raggiungere questo obiettivo. Senza dubbio la federazione ha rappresentato come fosse comprensibile e condivisibile la scelta di Boateng e del Milan in una partita amichevole, in un momento di festa, di dar luogo a una volontà esplicita di non permettere più che questo avvenisse. Però tutti quanti noi sappiamo che bisogna rispettare in primis le leggi dello Stato, ancor prima che quelle che sono le determinazioni del soggetto sportivo. Le nostre norme organizzative interne all'articolo 62 hanno un'esplicita previsione di titolarità delle responsabili dell'ordine pubblico, ma non perché l'abbiamo inventata noi, ma perché questo deriva da una circolare ministeriale che come cittadini ci vincola al rispetto delle disposizioni statuali. Questo lo dobbiamo sempre ricordare, perché questo è un paese che spesso pensa di dar luogo a delle modalità di intervento che non tiene conto delle norme esistenti. Le norme esistenti, se non sono valide, si possono modificare, ma finché ci sono vanno naturalmente rispettate. C'è una domanda del nostro Dario Ricci, non so se per Giancarlo Abete o per Damiano Tommasi. Per il presidente Abete. Presidente, se parliamo oggi ancora una volta di questo problema, non è solo per quei cori, ma soprattutto per il gesto di Boateng, segno che quando i campioni si muovono prendono posizione, l'opinione pubblica reagisce, è più attenta, i tifosi sono più attenti. Una giornata particolare quella di oggi per il calcio mondiale, si assegna a Zurigo il pallone d'oro, e tutto partì in qualche modo da un pallone d'oro, quello che Ruud Gullit dedicò a Nelson Mandela. Ecco, un pallone d'oro, ahimè, in naftalina, e che credo potrebbe tornare parecchio utile nel dialogare con le nuove generazioni e con i giovani, anche e soprattutto su questo tema, ce l'abbiamo anche noi, e risponde al nome di Roberto Baggio. Potrebbe essere lui il testimonial da scongelare, da coinvolgere in una campagna di educazione? Avete in mente di farlo? Perché è una risorsa che rimane lì in naftalina a Conversano e che forse adesso bisognerebbe far salire in campo, come va di moda, insomma. Sì, due riflessioni. La prima, che sono talmente d'accordo con la sua considerazione iniziale, che il gesto di Boateng abbia determinato un'ulteriore importante crescita di attenzione, che la federazione in tempo reale nel pomeriggio di venerdì ha espresso comprensione e condivisione per il gesto di Boateng del Milan, quindi siamo perfettamente allineati da questo punto di vista. La seconda è che, come lei sa meglio di me, Roberto Baggio già è un testimonial dei diritti civili in tutto il mondo, perché questo fa parte del suo DNA, che è anche precedente all'impegno che ha assunto all'interno della federazione come presidente del settore tecnico. Senza dubbio è una persona molto spendibile sul versante di una comunicazione di valori positivi, e quindi questa è una riflessione corretta. Ma Baggio questo lo fa da sempre, nel senso che uno dei problemi che Baggio ha all'interno del ruolo del settore tecnico è che è spesso in tutto il mondo per testimoniare queste situazioni, proprio perché ha questo tipo di indicazione, di indirizzo, che persegue da tantissimi anni. Quindi questa riserva della Repubblica è un'opzione? Una riserva della Repubblica importante, perché ovviamente usiamolo anche noi allora. Ovviamente, essendo dei grandi giocatori, grandi testimonial, persone ricche di valori, trasferiscono una dimensione di comunicazione in modo più immediato di quello che fa naturalmente ogni dirigente, che però non ha quel tipo di know-how e quel tipo di percorso. Quindi lo fa già all'interno delle Nazioni Unite Baggio, e quindi come tale è una dimensione già la sua mondiale, che ha come testimonial. Quindi abbiamo tenga un rafforzamento del ruolo di Baggio anche da questo punto di vista. Abbiamo un po' di telefonate e poi riprenderemo anche Damiano Tommasi, che è ancora in linea con noi. Inizierei con Anna Maria, che ci chiama da Padova. Buongiorno. Buongiorno a voi, buon anno. Prego. Quello che volevo dire era proprio, qualche ascoltatore l'ha già anticipato, che è forse il calcio che induce un po' una mancanza totale e continua di rispetto nei confronti dell'altro. Io sono la mamma di un piccolo ormai a 16 anni calciatore, gioca da quando ha 6 anni, quindi i sabati pomeriggi piuttosto che le domeniche mattina sempre a vedere le partite, e i genitori sono quanto di più esiziale possa esserci sulla faccia della terra. Tutti credono di avere il Maradona di turno e di magari di risolvere, che ne so, problemi economici o certi affrancamenti della vita, e si sentono di quelle parole, di quelle offese nei confronti dell'arbitro, nei confronti dei giocatori, che nel corso di questi anni sono modificati, diciamo così, in etnia all'interno delle rose. E quindi come giustamente è avvenuto nella nostra società. E quindi, se non parte questo tipo di educazione dalla famiglia, se non vengono anche espulsi certi genitori o certi personaggi che girano attorno a questo mondo, noi di famiglia non siamo, diciamo, sportivi nel senso sportivi di calcio. Nella nostra famiglia la tradizione è il rugby anche ad alti livelli e il nuoto, e queste cose qui nei pulcini da rugby o nei bimbi del nuoto non accadono. Quindi forse è un po' questo sport che, come dire, legittima comportamenti tutt'altro che etici. Grazie Anna Maria, e poi abbiamo anche altre domande e altri interventi, e questo merita secondo me una risposta di Damiano Tommasi. Cos'è la tensione del vertice che rende e della enorme diffusione naturalmente del calcio maggiore rispetto ad altri sport, che genera tutto questo? Ma forse la presunzione che i 22 in campo siano fortunati, che siano stati graziati, che abbiano trovato il percorso giusto, ma che di fatto stiano facendo una cosa che io so fare meglio. Questo è il pensiero, penso, della maggior parte di quelli che vanno negli spalti, perché la maggior parte di questi poi gioca da solo, mentre nel rugby è evidente che chi è in campo ha delle qualità che chi è sugli spalti non ha, o come il basket o come il nuoto. Nel calcio si ha la presunzione che un gol così lo si sarebbe fatto, che un gol così non si sarebbe preso, che ognuno di noi correrebbe di più se fosse in mezzo al campo rispetto a chi in quel momento non sta probabilmente rendendo come si vorrebbe. Poi il discorso del rispetto anche dell'arbitro, credo che abbia ragione anche la signora che ha telefonato, che spesso e volentieri devono essere i genitori ad indicare un certo modo di comportarsi. Purtroppo certi genitori, anziché magari imparare dai loro figli a rispettare l'avversario, a rispettare l'arbitro, a rispettare chi in quel momento è avversario, si lasciano andare e sono poco educativi in questo senso. Credo che tutti potremmo far di più, senza scaricare magari le colpe su altri. Il fatto poi che i grandi campioni facciano parlare, facciano sollevare il problema quando fanno gesti eclatanti, insomma, mi lasciano un po' perplesso le considerazioni che sì, l'ha fatto a Busto Arsizio, magari in Champions non l'avrebbe fatto. Non capisco cosa si voglia dire con questa frase, c'è anche da capire, insomma, che è veramente assurdo che si vada a Busto Arsizio a vedere l'amichevole Pro Patria Milan per istigare, per provocare un giocatore che magari si sta allenando e sta cercando di preparare al meglio le partite che sono la sua professione. Dario Ricci, una domanda per lei. Presidente, problema comune a tutto il calcio europeo, i casi in Inghilterra, in Est Europa, non è raro che volino banane all'indirizzo dei giocatori di colore dalle curve, dagli spalti. Ecco, quali strategie comuni state mettendo concretamente in atto con l'Associazione Mondiale dei Calciatori, col Sindacato Mondiale, proprio perché è un problema comune e diffuso e che quindi richiede, immagino, soluzioni condivise? Immagino riguardi io la domanda, no? Sì, Presidente, certo. Tommasi, sì. Ma come ho detto anche prima, uno dei problemi gravi della nostra categoria, soprattutto in certi paesi, è la violenza che si ha attorno alla manifestazione sportiva e anche nella vita privata nei confronti di alcuni giocatori. Il tutto legato anche purtroppo al fenomeno delle scommesse e non solo, al fatto che ci siano magari infiltrati nelle curve o attraverso, come detto prima, l'aggregazione del calcio si generi anche la mescolanza tra tra movimenti politici di un certo tipo e modo di aggredire, di provocare anche lo scontro che diventa abituale. Il sito della FISPRO ha, invito tutti magari per curiosità quantomeno andare a vedere un video che parla del Black Book che è stato pubblicato, che è stato redatto, in cui vengono monitorate e portate a conoscenza tanti episodi di violenza che sono stati fatti nei confronti di calciatori. Quello che ho detto prima è che lo stadio diventa quasi terra di nessuno, dove anche tirare una banana o anche esporre uno striscione diventa possibile, e questo nell'anonimato dà una visibilità che, soprattutto se pensiamo a una partita amichevole giocata nell'Inter milanese, si finisce su tutti i giornali del mondo, vuol dire che è un grande palcoscenico, e quindi nel bene e nel male si ha questa visibilità, e chi la vuole approfittare ne approfitta. Da parte nostra c'è la massima attenzione e la voglia anche di stimolare la discussione e cercare di far applicare la normativa che in alcuni paesi c'è, molto stringente, e viene anche rispettata, in altri non viene rispettata. Allora, abbiamo una pausa per la viabilità e poi abbiamo altre telefonate, a partire da quella di Mauro che ci chiama da Udine e che è in attesa da un po'. Prendiamo un po' di telefonate, che insomma abbiamo lasciato parecchi ospiti, abbiamo lasciato un po' da parte gli ascoltatori. Ve ne chiedo scusa, all'800 24 0024, Mauro che ci chiama da Udine, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi graditi ospiti, specialmente al personaggio più serio del calcio, che è Damiano Tommasi. Volevo dire, partendo dal presupposto che è sbagliato quello che è successo, è grave e tutto quanto, secondo me si fa troppa pubblicità a questi personaggi, questi stupidi ignoranti che fanno queste cose agli stati, si fa troppa pubblicità, si mettono su Facebook, su YouTube, secondo me è sbagliato parlarne così, lasciarli stare e basta, secondo me finisce questa cosa se non se ne parla. Lei non crede invece che insomma che magari se si lascia da parte il fenomeno rischia di crescere invece? Secondo me no, perché c'è troppo sono troppo portati a farlo per pubblicizzarli, sono stupidi, non sanno nemmeno che cos'è il razzismo queste persone, secondo me, è una moda. Chiarissimo Mauro la sua posizione. Andrea ci chiama da Roma, buongiorno. Ma senta, l'ascoltatrice di Padova mi ha un po' anticipato l'intervento. Prego. Ha fatto un po' la fotografia, perché il problema è profondamente culturale, cioè nel senso, la scuola qui fin da quando sono in regione c'entra moltissimo, e se va su tutti i campi locali in qualsiasi parte d'Italia i genitori insultano i bambini fin da quando sono piccoli, è una cosa di una gravità assoluta, perché guardi, veramente, se uno frequenta un attimo i campi locali se ne vedono di tutti i colori, non so perché succede soltanto nel calcio, in altri sport un po' la cosa è un po' tanto lieve. Un'ultima cosa, siccome ho saputo che forse è un assessore, uno di questi che ululava in campo. Sì, pare che sia un assessore della Lega, un ragazzo di 21 anni, ha detto il mio legale mi ha detto di non rispondere, quindi di fatto non ha parlato. Prego, prego. Va benissimo, però io vorrei soltanto richiamare... Mica tanto bene, comunque prego. No, per carità, infatti volevo dire... Siccome uno adesso parlare della politica in questo momento è come sparare sulla Croce Rossa, vorrei ricordare che la politica ci ha fatto le campagne elettorali con le curve di tutti gli stati. Se prendesse la responsabilità e facesse leggi severe, come è successo anche in Inghilterra, che poi l'hanno anche in parte risolto, così almeno uno no, cioè bisogna prendersi delle responsabilità. Bravissimo, perché il punto sui politici che ci hanno fatto campagne elettorali con le curve mi sembra estremamente azzeccato. Abbiamo Amerigo che ci chiama da Genova, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per avermi accolto. Io volevo sottolineare, rimanendo un po' sulla linea dei precedenti interventi, il fatto che in Italia, anche a livello scolastico, non viene fatto nessun investimento nei confronti dello sport. E lo sport non è solo fare ginnastica, è cultura sportiva, è cultura del rispetto dell'altro, del diverso. Cioè, in Italia non solo c'è il razzismo verso il nero, che è drammatico, ma c'è il razzismo verso il corregionale, razzismo nei confronti di chi vive nella sua stessa città. Io sono un tifoso del Genoa, ho avuto per 20 e passa anni o 48 anni l'abbonamento, non lo faccio più perché sono piccolo e non lo porto negli stadi a sentire quello che si sente. Non ce la faccio più. Gioca a rugby, ma potrebbe giocare ad altri sport come il volley. Non è un problema che la gente sta zitta perché non capisce le regole o non sa se quelli potrebbero essere più o meno. L'hanno detto che rispettano i ruoli. Il proprio bambino non viene spinto per essere il più forte, il proprio bambino viene spinto per essere all'interno di gruppo uno fra i tanti che può aiutare quella squadra a vincere. Nel calcio questo purtroppo non esiste più, nemmeno nei bambini di 6 anni. Mi sembra di aver sentito nelle parole dei nostri ascoltatori, grazie intanto ad Amerigo che ci ha chiamato da Genova e rivolgo la domanda a Giancarlo Abete, una serie di atti di accusa direi nei confronti del calcio in se stesso, insomma. Le chiederei una risposta, una valutazione, perché insomma poi quando si va a sentire queste storie, che sono anche storie personali, storie di gente che questi campetti li frequenta, colpisce molto. C'è una complessiva carenza di cultura? Ma c'è una complessiva carenza di cultura e anche una dimensione di un'educazione ovviamente non soddisfacente, che riguarda non solo il calcio ma penso riguardi tutto il nostro paese in generale, nel senso che è un problema che nel calcio esprime delle negatività forti ma che ovviamente fa parte della società nella quale viviamo. Se noi ancora oggi dobbiamo e facciamo ben volentieri delle iniziative come Federcalcio, come il 14 di novembre in Italia Francia contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne, dobbiamo capire qual è lo scenario di riferimento nel quale si vive ancora nella nostra società, che non è naturalmente soddisfacente. Bisogna, come diceva Damiano Tommasi prima, far crescere fortemente a partire dalla scuola la dimensione formativa, culturale, di rispetto delle diversità. Questa è una realtà ovviamente. Però mi scusi, però Abete, mi scusi, la interrompo perché al di là di quello che è il ruolo formativo nelle scuole, naturalmente il ruolo formativo delle famiglie, c'è un ruolo formativo che ha anche il mondo del calcio. Infatti noi nei limiti delle nostre possibilità e capacità lo stiamo facendo. Noi abbiamo quest'anno nel mese di maggio ho fatto qui a Roma l'incontro europeo della rete della UEFA contro il razzismo. In tutte le attività che vengono svolte per dare le licenze per l'iscrizione ai campionati alle società sono previste delle giornate contro il razzismo che vengono organizzate dalla federazione, a cui c'è, al di là dell'obbligo di partecipare, c'è un'attività di formazione che viene svolta anche nei confronti dei ragazzi delle rappresentative nazionali, e c'è un settore, il settore giovanile scolastico presieduto da Gianni Rivera, che svolge un'attività finalizzata proprio alla crescita dei valori e alla dimensione non tanto tecnico-agonistica, che è di competenza del settore tecnico, ma proprio valoriale. Quindi l'attività viene svolta, naturalmente è un'attività che ha come bacino di riferimento 1,5 milioni di persone, perché questi sono i tesserati, il numero di tesserati del calcio, e veniva giustamente ricordato da un ascoltatore che il tipo di attenzione che viene data anche dal mondo della scuola nei confronti dei valori dello sport è abbastanza limitata, perché non c'è solo l'aspetto diciamo più che strettamente agonistico, ma c'è l'aspetto culturale che in qualche modo non trova un ascolto. Quindi la federazione attraverso il settore giovanile cerca di fare questo tipo di attività, e naturalmente si tratta di intercettare milioni e milioni di persone. Dopodiché non va assolutamente sottovalutato il fenomeno. Non sono d'accordo con l'ascoltatore che diceva non diamogli spazio, no, mandiamoli via dagli stadi, sono facilmente identificabili. Oggi è facilissimo identificare coloro i quali svolgono le attività improprie negli stadi, perché gli stadi sono tutti dotati di strumenti di controllo idonei, che arrivassero le centinaia e le migliaia di DASPO che allontanassero dallo stadio definitivamente o perlomeno per 5 anni coloro i quali pensano di dare luogo alle loro trivialità e alle loro ignoranze in un palcoscenico che trova poi un facile ritorno. Ritorno naturalmente. Naturalmente quello che è avvenuto a Busto allo stadio lo sa tutto il mondo. se ci fosse stato un comportamento di questo genere in un qualsiasi altro contesto lo saprebbero poche decine di persone. Chiarissimo, chiarissimo. Brevemente, brevissimo, Andrea da Milano, che abbiamo un paio di minuti e mezzo prima della chiusura. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buon anno. Senta, è bellissimo riempirsi la bocca, come ha fatto il presidente Abete, di tutte queste cose relative alla cultura. Io sono d'accordo e ho due figlie e anch'io perseguo questo fine. Detto questo, se riuscissimo a togliere 10 punti alle squadre dove avvengono queste manifestazioni in questi stadi, presumibilmente io credo che ci sarebbe qualche opportunità in più. Andrea, chiarissimo, io giro subito la domanda ad Abete. Ecco, magari 10 punti sono troppi, ma qualche penalizzazione, visto che a volte insomma i legami tra le tifoserie e le squadre, diciamo così, e le società calcistiche non è che siano proprio limpidissimi, potrebbe forse non essere male. Che dice lei? Potrebbe essere anche un buon deterrente. Già ci sono, c'è la titolarità addirittura dello stesso osservatorio, fermo restando le decisioni degli organi di giustizia sportiva, di chiudere interi settori dello stadio, e questo è già avvenuto, voglio dire, anche per club importanti, se ricordiamo la storia. Dopodiché, naturalmente, ci dobbiamo anche intendere sul versante della responsabilità oggettiva, perché da una parte ogni volta che c'è una responsabilità addirittura di un tesserato, tutti gridano che non è giusto che una società paghi le responsabilità del singolo tesserato non essendone a conoscenza, e d'altro canto magari quando ci sono queste situazioni si ritiene che la società sia l'unico soggetto che poi ne abbia le reali responsabilità. Attenzione che comunque ogni tipo di collegamento tra frange estremiste del tifo e società non sono consentite dalle norme, e quindi la responsabilità della società deve maturare nel momento in cui si manifesta un tipo di tolleranza o un tipo di accondiscendenza nei confronti di queste frange, altrimenti è sufficiente per 20 persone voler creare un danno a una società con dei cori razzisti, si modifica il campionato in relazione alle decisioni che vengono prese da pochi irresponsabili. Chiarissimo, grazie a Giancarlo Abete, grazie a Damiano Tomasi, grazie al nostro Dario Ricci, grazie a Eleonora, Rosa e Sabrina al centralino, Franco Piantanida in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 9.